Capitolo 17, edizione straordinaria. Era abbastanza corretto, indubbiamente, che Phyllis non provasse per Darley un interesse nel senso che lui si attribuiva la parola, ma allo stesso tempo era chiaro a sufficienza che l'uomo aveva avuto modo di iniettarle nelle vene un oscuro veleno. Sin dalla notte della conversazione alle gallerie Berkeley, quando le aveva presentato il suo addio, un mutamento sotto ogni aspetto verso il peggio aveva avuto luogo dentro di lei. La vivacità che era stata una sua principale attrattiva era venuta meno. Era apatica, irrequieta, annoiata e completamente più indolente che mai. L'insolenza dei suoi atteggiamenti più frivoli indignò anche le sorelle, che erano avvezze a concederle ampie licenze in materia di gioco. I capricci dei suoi momenti negativi le stremavano. A Eastbourne si era divertita a civettare senza ritegno con Fred per l'irritazione dei Devonshire e la soddisfazione della vittima stessa, che al momento era della disposizione adatta e che sperava che Lucy ne venisse informata. Dopo la visita a Eastbourne di Phyllis, seguita a stretto giro dalle nozze di Fanny, la casa di Upper Baker Street passò attraverso un periodo di monotonia, che era avvertito come tanto più pungente a confronto con l'allegra pienezza dell'estate precedente. Erano tutti fuori città. All'inizio di settembre anche i cugini di campagna erano partiti e la gente non aveva ancora ricominciato a far ritorno a Londra, che stava attraversando forse il periodo più desolato dell'anno. Il lavoro di certo andava a rilento e loro non avevano più i preparativi per le nozze di Fanny a cui poter far ricorso. L'aria era calda, cupa e nebbiosa, come un bagno di vapore, diceva Phyllis. Anche Gertrude Cookney, impenitente com'era, cominciò a desiderare la campagna. Nulla, eccetto che un forte sentimento di lealtà verso la sorella, impedì a Lucy di accettare un gentile invito dai vecchi di Frank. Phyllis proclamò apertamente che stava solo aspettando Dear East Beste per scappare da Baker Street. Phyllis, infatti, era il caso più disperato fra tutte loro, perché mentre Lucy si consolava con le sue preziose lettere dall'Africa, Gertrude aveva nuovamente ripreso in mano la penna, che sembrava muoversi fra le sue dita con maggiore fluidità di quanto avesse mai fatto in precedenza. Così i giorni passarono fino alla metà di settembre e la vita cominciò a diventare più frenetica nella grande città. Un pomeriggio afoso, le Lorimer erano radunate in salotto. Entrambe le finestre erano aperte, facendo entrare la calda, stagnante aria autunnale. Ogni suono della strada poteva essere distintamente udito. Lucy sedeva in disparte, immersa in una lunghissima lettera su carta straniera che era arrivata per lei quella mattina e che era stata troppo impegnata per leggere prima. Phyllis era a tavola e stava sbadigliando sopra una copia del Woodcut, che era aperto su una pagina di incisioni intitolate La guerra in Africa attraverso le illustrazioni dei nostri inviati speciali. Gertrude cuciva alla finestra, troppo stanca per pensare o fare conversazione. Di quando in quando lanciava occhiate meccaniche alla casa di fronte, dalla quale in quei giorni di desolazione nessun giovanotto bizzarro e impulsivo soleva uscire, dalle cui finestre più alte non c'erano occhi amici a restituire smaniosamente lo sguardo. Le stanze sopra il banditore d'asta avevano infatti un nuovo inquilino, un'ex girtoniana senza corsetto che insegnava all'istituto superiore femminile proprio lì vicino. Le ragazze scelsero di guardarla come un'usurpatrice e con il modo di far giustizia consono al loro sesso indulgevano in numerosi commenti sarcastici sul suo aspetto. Sulle spalle larghe, il passo spedito, sull'abito verde con le maniche a sbuffo e il fazzoletto color zolfo che portava abitualmente. In quel momento Lucy alzò il viso dalla lettera, la piegò, sospirando e sorridendo. «Cosa ha da raccontarti?» disse il tuo inviato speciale, chiese Phyllis, spingendo via il Woodcut. «Scrive con animo sereno, ma non offre alcuna speranza che la guerra si avvii alla conclusione. Per l'appunto sta per addentrarsi ancora di più nel continente, con la divisione del generale Somerset. Il signor Steele, del fotogravure, del quale sembra diventato buon amico, va insieme a lui», rispose Lucy riponendo la lettera nella tasca. «Magari le sue illustrazioni diventeranno un po' più realistiche così. Questa settimana sono talmente noiose». «Phyllis», si alzò mentre parlava, stirando le braccia sopra la testa. «Penso che andrò a mangiare da Fan. È così allegra lei». Fanny aveva fatto ritorno dalla Svizzera da qualche giorno e ora era nella vivace corrente del compiacimento di sua sposa, di una sposa, come padrona di un'accogliente orrenda casetta Notting Hill e moglie di un uomo grosso e affezionato, stava finalmente cominciando a sentire di avere il proprio posto nel mondo. «Verrò con te», disse Lucy Phyllis, «e spazzolati i capelli prima di andare». Le due ragazze uscirono dalla stanza, lasciando Gertrude da sola. Lasciato cadere il suo lavoro sul grembo, lei si sporse dalla finestra in un ozio sognante, sbirciando in strada, dove il pomeriggio stava imbrunendo rapidamente nella sera. Le Una foschia di un color grigio spento, sottile e impalpabile, sostava nell'aria, indebolendo la lunga prospettiva della via. Le ore di scuola erano terminate ed era possibile riconoscere la Girtoniana con le braccia ciondolanti come la corda di una campana sulla via di casa, con un devoto corteo di ragazze che vagabondavano sulla sua scia. Dall'angolo della strada si levavano le grida del ragazzo dei giornali, mischiate allo sferragliare delle ruote di un omnibus. Una carrozza vuota passò lentamente oltre. Gertrude notò che aveva lumi viola invece che rossi. Un lampionaio stava facendo il suo giro, lasciando una scia sempre più lunga di luci arancioni a segnare il suo percorso. Il ricordo dell'estate e il presagire dell'inverno si erano incrociati in quel cupo crepuscolo. Come rimbomba questo posto, pensò Gertrude. Le sembrava che i ragazzi che strillavano per i giornali della sera fossero più chiassosi del solito, e come il pensiero le attraversò la mente, si accorse di un suono odioso e familiare, il grido roco di un uomo che per le strade annunciava un'edizione straordinaria. Nessun grado di familiarità poteva vincere l'istintivo brivido d'orrore con il quale ascoltava sempre questi uccelli del malaugurio, questi corvi, il cui orrendo compito era gongolare malignamente sulle disgrazie degli uomini. Ora, mentre il suono si faceva più forte e distinto, l'usuale, incerto, disgustoso terrore si impossessava di lei. Si portò le mani alle orecchie. Sarà qualche ridicola gara, senza dubbio. Lasciò entrare il suono di nuovo. La sua non era una paura precisa, ma sperò che Lucy nella sua camera da letto al piano di sopra non avesse sentito. Le grida cessarono improvvisamente, qualcuno stava comprando una copia del giornale, poi ripresero con uno schiamazzo ancora maggiore. Gertrude drizzò le orecchie per sentire. Un terribile massacro delle truppe britanniche!» veniva diffuso con voce tremenda. Ascoltava, paralizzata da un terrore indicibile. «Un reggimento annientato! Morto il generale! Edizione straordinaria!» Il demonio stava sotto la finestra, vociando verso l'alto. In un istante Gertrude era corsa giù per la scala buia e stava dando all'uomo 6 penny per un giornale da mezzo. Stando sotto il getto della lampada a gas nel corridoio, aprì il giornale e lesse, poi ancora stringendolo forte si accasciò sul gradino più basso, bianca e tremante. Rapidi passi silenziosi scesero dietro di lei, qualcuno le toccò una spalla e una voce stranita le sussurrò all'orecchio. «Dammelo!» Lei si rimise in piedi, mettendo dietro di sé il foglio odioso. «No, no, no, no, Lucy, non è vero!» «Sì, non essere ridicola, Gertie!» Lucy prese il giornale fra le sue mani, lo portò alla luce e si mise a leggere. Gertrude nascondeva la faccia contro il muro. Il giornale riportava brevemente le notizie che erano giunte al quartiere generale sullo sterminio pressoché totale delle truppe, che sotto il comando del generale Somerset si erano spinte nei territori africani più interni qualche settimana prima. Pochi dispersi, principalmente alleati nativi, avevano raggiunto la costa e si erano salvati e avevano raccontato che il generale in persona era stato fra i primi a cadere. I signori Steele e Germin, inviati speciali rispettivamente del fotogravure e del woodcut, erano fra quanti si erano uniti alla spedizione. Non c'era nessuna notizia certa sulla loro sorte, c'era motivo di temere che avessero condiviso il tragico destino degli altri. «Non è vero?» La voce di Lucy suonò cupa e strana. Rimaneva lì, confusa e immobile, sotto il getto del gas. La signora Marion, che aveva comprato il giornale per conto proprio, uscì dal salone del negozio in tempo per vedere la povera giovane barcollare in avanti fino a cadere nelle braccia della sorella. Furono giorni bui quelli che seguirono. All'inizio c'era stata speranza, ma più il tempo passava e venivano alla luce ulteriori dettagli della sciagura, meno restava da fare anche al più fiducioso se non accettare il peggio. Gertrude stessa sentiva che il pallido bagliore di incertezza che ancora permaneva era forse la più crudele linea della sorte. Se solo gli occhi scavati di Lucy avessero potuto versare le loro lacrime naturali sulla tomba di Frank, lei avrebbe di nuovo trovato pace. La tomba di Frank. Gertrude indietreggiò, incredula di fronte a quel pensiero. La morte, come generica asserzione, è così facile a dirsi, a credersi. È solo quando vi veniamo faccia a faccia che troviamo il grande mistero così difficile da realizzare, perché la morte, come l'amore, è sempre vecchia e sempre nuova. Le persone tornano sempre nei libri, aveva detto Fanny, tentando in tutta buona fede di dispensare consolazione, e Lucy aveva addirittura accennato un sorriso. «Vostra sorella dovrebbe essere in grado di trovare di meglio per se stessa», disse Edward Marsh in seguito alla moglie, ma Fanny, che aveva sempre avuto una genuina simpatia per il buon Frank, si trovò per una volta in disaccordo con l'opinione del marito. Era un bravo ragazzo e l'amava. Avrà sempre questo da ricordare, pensò Gertrude mentre guardava Lucy sbrigare i suoi compiti con una calma che l'allarmava ben più di quanto avrebbe fatto qualsiasi disperata esplosione di dolore. Caro piccolo Frank, mi domando se sia davvero morto, rifletteva Phyllis, guardando con i suoi occhi grandi la casa di fronte, come se si aspettasse di vedere un fantasma uscire dalla porta. Fortunatamente per loro, le Lorimer avevano poco tempo per covare le proprie pene. Il successo della bottega aveva dato prova di non essere effimero. Quando la gente fece il ritorno in città, il lavoro cominciò a piovere da tutte le parti e ne ebbero le mani piene. Lavoro e dolore, nella comune porzione umana, appartenevano alle giovani sorelle, che li accettavano con coraggio, se non a dire il vero, con rassegnazione. Settembre e ottobre scivolarono via e ora l'inverno incombeva su di loro. Capitolo 18. Phyllis. Lucy cara, devi andare. Via Gertie, non potrai mai riuscire a terminare il lavoro da sola. Mi farai aiutare da Phyllis, sarà la cosa migliore per lei e lavora meglio di tutte noi quando ne ha voglia. Le sorelle erano insieme, in piedi, nello studio, a discutere di una lettera che Lucy teneva in mano, una supplica dei vecchi affinché quella ragazza, che sarebbe dovuta diventare una figlia, facesse loro visita in quel momento di inconsolabile dolore. È semplicemente tuo dovere andare, continuò Gertrude, che si consumava d'ansia per la sorella, quindi aggiunse involontariamente, se pensi di essere in grado di supportarlo. Una luce baluginò negli occhi di Lucy. Esiste qualcosa che non sia in grado di sopportare? Si allontanò e iniziò meccanicamente a fissare un negativo in uno dei torchietti da stampa. E intanto ricordava come quell'ultimo giorno Frank aveva previsto la visita in Cornovaglia. Non aveva intenzione di mostrarle ogni cantuccia e ogni angolo della vecchia casa che tante volte prima le aveva così minuziosamente descritto. Luoghi che per tanto tempo erano stati familiari alla sua immaginazione e ora doveva farne la diretta conoscenza. Questo era tutto. A cosa giovava soffermarsi sulle differenze? Le sorelle parlarono poco dell'imminente viaggio di Lucy, che era stato fissato alcuni giorni dopo l'arrivo della lettera, e in un freddo e nebbioso pomeriggio di novembre, la giovane venne aiutata dalla signora Marion a portare in fondo alle scale la sua piccola cassa, mentre Matilda era uscita per cercare una carrozza. Nello stesso istante Gertrude venne fuori dallo studio con indosso gli abiti da passeggio. Probabilmente nessuno entrerà in questa oscurità egiziana, disse. Sono già le 4, ho intenzione di accompagnarti a Paddington. Sarà piacevole se pensi di poterti prendere questo rischio, rispose Lucy, che sembrava più bianca che mai nei suoi abiti neri. Ho lasciato alla signora Marion un messaggio da consegnare nell'improbabile caso dell'arrivo di 3 individui, come accadeva in John Gilbin. Disse Gertrude, compiendo un debole tentativo di portare un po' di allegria. A questo punto apparve Matilda per annunciare che la carrozza era alla porta. Dov'è Phyllis? Domandò Lucy. Non le ho detto addio. È uscita 2 ore fa, signorina, si inserì la signora Marion con quella sua voce triste. Di sicuro, disse Gertrude, è andata da Connie. Credo ci vada spesso ultimamente. La signora Marion alzò velocemente lo sguardo, quindi si mise ad aiutare Matilda a sollevare la cassa sulla carrozza. Che freddo pungente, disse Gertrude, rabbrividendo mentre oltrepassava la soglia. Una nebbia giallognola era sospesa nell'aria, congelatasi per il repentino cambio di temperatura in una massa densa e palpabile. Non mi sorprenderei se nevicasse, osservò la signora Marion scuotendo la testa. Oh, come è potuta essere così scellerata, Phyllis, da uscire con questo tempo? Disse Gertrude mentre la carrozza si allontanava e la sua tosse è diventata così fastidiosa ultimamente. Mi pare che sia tornata a essere quella di un tempo nelle ultime 2 settimane, disse Lucy, quindi aggiunse: Sai che il signor Darrell è tornato? Mi sono dimenticata di dirtelo quando l'ho incontrato a Regent's Park l'altro giorno. Spero non voglia rinnovare le pose, ma di sicuro avrà trovato qualche nuovo capriccio a quest'ora. Mi auguro che abbia lasciato perdere Phyllis. Non le ha fatto bene. Povera piccola anima, temo trovi la cosa deprimente. Intendo programmare per quando sarai via una piccola distrazione per entrambe. Il teatro, probabilmente, disse Gertrude, avvertendo tra i rimorsi che per via della sua preoccupazione per Lucy aveva invece finito per trascurare Phyllis. Sì, fallo e prenditi cura di te stessa, vecchia cara Gertie, rispose Lucy mentre la carrozza si fermava alla stazione di Paddington. Re sorelle si abbracciarono a lungo e in silenzio e pochi minuti dopo Lucy era in viaggio verso ovest in un vagone di terza classe, mentre Gertrude percorreva nella nebbia la strada. la strada per Pratt Street Station. A Baker Street capì che la predizione della signora Marion si stava avverando. La nebbia si era un po' sollevata e i fiocchi di neve presero a cadere a lenti intervalli. Davanti alla porta del 20B stava una piccola carrozza chiusa, una carrozza come poteva notare grazie alla luce del lampione con una corona blasonata sui pannelli. Lord Watergate è nello studio, signorina, annunciò la signora Marion che apre la porta. È arrivato soltanto un minuto fa e ha preferito aspettare. Ho acceso la lampada. Mentre Gertrude si dirigeva verso lo studio, la donna corse da lei e le mise un biglietto in mano. Ho dimenticato di darvi questo. L'ho trovato nella cassetta delle lettere un minuto dopo che siete partite. Gertrude, guardando di fretta la busta, riconobbe con una certa sorpresa la scrittura infantile di sua sorella Phyllis e concluse che aveva deciso di rimanere per la notte dai Devonshire. Poteva ricordarsi che ero da sola, pensò con un po' di mestizia mentre apriva la porta della sala d'aspetto. Lord Watergate le si fece incontro e si strinsero le mani con formalità. Non l'aveva rivisto dalla notte della conversazione alle gallerie Berkeley. La sua presenza mastodontica pareva riempire la piccola stanza. È vergognoso, disse, che sia sceso da voi a un'ora così tarda. Gertrude posò il biglietto di Phyllis sul tavolo e si voltò verso di lui con un sorriso di disapprovazione. Non volete leggere la vostra lettera prima di cominciare a occuparvi delle lastre? Vi ringrazio, l'aprirò subito. Ruppe il sigillo, si avvicinò alla lampada e gettò velocemente lo sguardo sulla lettera, ma qualcosa nei contenuti sembrò catturare la sua attenzione, tanto da meritare più di un'occhiata fugace. Per qualche momento rimase assorta in quel foglio scritto con tanta leggerezza, poi improvvisamente un'esclamazione di dolore e incredulità scoppiò sulle labbra. Lord Watergate le si avvicinò. Signorina Lorimer, siete in difficoltà? Posso aiutarvi o devo andarmene? Alzò lo sguardo, quasi disorientata, sul volto fermo e gentile. Quindi, senza realizzare più nulla, salvo che aveva accanto una presenza amica, mise la lettera in mano sua. Questo è quello che lui lesse. Mia cara Gertie, questa lettera è per dirti che non tornerò a casa questa sera. Non tornerò a casa mai più, in realtà. Sto per sposare il signor Darrell che mi porterà in Italia, dove il tempo è mite e dove mi sentirò meglio. Perché, sai, sono terribilmente malata, Gertie, e anche depressa. Certamente sarai arrabbiata con me, non ti è mai piaciuto, Sidney? E penserai forse che sono un'ingrata essendo me ne andata in questo modo. Ma, oh Gertie, si respirava una tale tristezza. Soprattutto da quando abbiamo saputo del caro povero Frank. Sidney odia il clamore, e così io. Abbiamo entrambi preferito andarcene senza far chiasso, come dice Fred. Con affetto, Phyllis. Mentre Lord Watergate terminava questa epistola singolare, un'esclamazione ancora più carica di orrore di quella di Gertrude gli venne alle labbra. Camminava per la stanza, accartocciando il foglio fra le mani. Lord Watergate. Gertrude gli stava di fronte, terrea, con aria interrogativa, un terrore senza eguali l'afferrò. Qualcosa sul viso della giovane lo colpì. Si fermò di colpo davanti a lei e con voce quasi paralizzata dal disgusto le disse: Non lo sapete? Non so cosa, fece con lei alle sue parole sconcertata. Darrell è sposato. Non vive con la moglie, ma non è un segreto. I tavoli e le sedie rosse, la lampada. Lord Watergate stesso, la cui voce suonava feroce e arrabbiata, roteavano intorno a Gertrude in una confusione disperata. Poi improvvisamente si ricordò che quella storia non era nuova, che l'aveva sempre saputo dal primo momento in cui aveva guardato in faccia Darrell. Chiuse gli occhi ma non svenne. Rimase in piedi mentre con una mano cercava di sorreggersi al tavolo. Sì, lo aveva sempre saputo. Aveva assistito imponente, paralizzata, mentre questa cosa accadeva. L'aveva visto nello stesso modo in cui Cassandra vide da lontano l'orrore che non era stata capace di evitare. Aprì gli occhi, incontrò lo sguardo addolorato, pietoso e indignato del compagno. Che si deve fare? Le sue labbra pronunciarono le parole con difficoltà. Una pausa, poi lui disse: Non posso avanzare molte speranze, ma verrete con me a casa sua a chiedere spiegazioni. Lei accennò di sì col capo, si ricompose e fece strada dalla stanza. La neve cadeva fitta veloce mentre uscivano dalla casa e Lord Watergate l'aiutò a salire sulla sua carrozza. Era diventato molto buio e il vento era aumentato. «Ai sicamores!» disse Lord Watergate al suo cocchiere, mentre prendeva posto accanto a Gertrude e le stendeva la pelliccia sulle ginocchia. La signora Marion, guardando dalla finestra della farmacia, si strinse nelle spalle. Chi lo avrebbe mai pensato? Ma non si può mai dire. E quella Phyllis? È la seconda volta che la vedo insieme a quel gentiluomo dai capelli biondi, con quello strano taglio di barba. Da lei dovevamo aspettarcelo, povera creatura, ma Gertrude. E hanno le camere in affitto, brontolò il signor Marion fra i suoi pestelli e mortai.